Il diario di Arturo. 1 dicembre, Golfo del Messico. Oggi ho giocato per ore e ore a risalire alla superficie dell'acqua muovendomi a spirali, poi a ridiscendere nelle profondità del mare. Ho soffiato l'aria dai miei due sfiatatoi come un mattacchione. Credo che il mio soffio abbia raggiunto un'altezza di 5 metri. Papà soffia addirittura fino a 10 metri. Ero talmente contento che ho fatto un balzo formidabile fuori dall'acqua. Al tramonto, il mio soffio formava un arcobaleno di goccioline brillanti. L'indomani, nello stesso posto. Quando mi immergo, cerco di evitare soprattutto quella strana specie di pesci rigidi e rumorosi chiamati battelli, perché dove c'è un cargo, per noi significa fine della tranquillità. Ma qui tutto è sereno. E il plankton è delizioso. Non sarà oggi che ci muoveremo dall'Atlantico. Sono molto contento, perché la prossima primavera partiremo verso il nord, diretti all'Artide, e là il krill è mille volte più abbondante. Per scrivere questo diario adopero le grandi foglie di alga rossa e l'inchiostro nero fornito gentilmente dal signor Octopus, il nostro vicino dei piani bassi, il polpo. La sua grande tasca è piena di inchiostro. Lui scrive la corrispondenza per i pesci che non sanno né leggere né scrivere e diffonde i piccoli pettegolezzi. Quando avrò terminato il mio diario, metterò tutte le foglie in una grande bottiglia, la tapperò e la lascerò andare. Le onde la spingeranno su una spiaggia e con un po' di fortuna non si romperà. E un giorno, forse, la raccoglierà un bambino.